Capitolo 10. Le scuse di Anna. Marilla non disse niente a Matthew di ciò che era accaduto quella sera, ma quando Anna il mattino dopo continuò a rifiutarsi di fare ciò che le chiedeva, dovette per forza fornire una spiegazione per motivare l'assenza della bambina dal tavolo della colazione. La donna raccontò tutta la storia al fratello, calcando sui dettagli perché si rendesse conto della gravità del comportamento di Anna. Mi fa solo piacere che quella vecchia pettegola intrigante di Rachel Linda abbia avuto ciò che si merita, fu la consolatoria reazione di Matthew. Matthew Cuthbert, mi meraviglio di te. Sai benissimo che Anna si è comportata male, però la difendi e stai dalla sua parte. Tra un po' verrai a dirmi che non è nemmeno il caso di punirla. Beh, no, non proprio, replicò l'uomo a disagio. In effetti una piccola punizione la merita, ma non essere troppo dura con lei, Marilla. Ricordati che nessuno le ha mai insegnato l'educazione. Comunque le dai qualcosa da mangiare, vero? Da quando in qua ti risulta che io costringa la gente a comportarsi bene facendola morire di fame? Gli chiese sua sorella indignata. Mangerà regolarmente 3 pasti al giorno, ma mangerà in camera sua. Le porterò di sopra il piatto e la bambina starà in camera fino a quando non deciderà di chiedere scusa alla signora Linde. Punto e basta. Colazione, pranzo e cena quel giorno furono molto silenziosi perché Anna non voleva cedere. Dopo ogni pasto, Marilla portava un vassoio pieno nella cameretta della mansarda est e lo riportava al pian terreno più tardi, quasi intatto. Matthew lo scrutò con aria preoccupata la sera. Anna aveva mangiato almeno qualcosa? Quando Marilla andò a prendere le mucche che pascolavano nel prato dietro a casa, Matthew, che era rimasto a gironzolare intorno al fienile in attesa che uscisse, si infilò in casa di soppiatto, come fosse un ladro, e salì al piano di sopra. In genere, l'uomo gravitava tra la cucina e la piccola camera da letto dove dormiva, all'altro lato dell'ingresso. Solo di tanto in tanto si avventurava a disagio in salotto o in soggiorno, quando il pastore andava da loro a prendere il tè, ma non saliva al piano superiore di casa sua dalla primavera in cui aveva aiutato Marilla a tappezzare la camera per gli ospiti, ed era stato 4 anni prima. Percorse il corridoio in punta di piedi e rimase fermo per qualche minuto davanti alla porta della camera di Anna, prima di trovare il coraggio di bussare piano con le dita, aprire e sbirciare all'interno. La bambina era seduta sulla sedia gialla vicino alla finestra e guardava il giardino con occhi pieni di tristezza. Sembrava così piccola e infelice che a Matthew si strinse il cuore. Entrò, chiuse con delicatezza la porta e si avvicinò alla bambina senza far rumore. Anna, sussurrò come se avesse paura di farsi sentire. Come stai? Lei reagì con un accenno di sorriso. Abbastanza bene, sto cercando di fantasticare il più possibile per passare il tempo. Mi sento molto sola, ovvio, ma questo prima o poi dovrei abituarmi. Anna sorrise di nuovo, come se stesse pensando ai lunghi anni di prigionia solitaria che l'aspettavano. Matthew si ricordò che doveva dirle una cosa e non c'era tempo da perdere perché Marilla sarebbe potuta tornare in casa prima del previsto. Senti, Anna, non ti pare che sarebbe meglio affrontare la questione e finirla qui? Sussurrò di nuovo. Sai anche tu che prima o poi ti toccherà farlo perché Marilla è un tipo deciso e non cederà di sicuro. Mia sorella è tremendamente testarda. Ascolta me, fai questa cosa e non pensarci più. Ti riferisci al fatto di scusarmi con la signora Linde? Esattamente, vai a scusarti, insisté Matthew impaziente di tornare al pian terreno. Insomma, mettici una pietra sopra, questo volevo dirti. Beh, immagino che per te potrei farlo, mormorò Anna meditabonda, e non sarebbe nemmeno più una bugia dirle che mi dispiace perché adesso mi spiace sul serio. Ieri sera però no, neanche un pochino, ero furiosa e lo sono stata per tutta la notte. Lo so per certo perché mi sono svegliata 3 volte ed ero sempre arrabbiatissima. Però stamattina mi era passata, non ero più arrabbiata, anzi, mi sentivo come esaurita e mi sono molto vergognata di me stessa. Ma anche così non sono riuscita a trovare la forza di andare dalla signora Linda a dirglielo. Mi sembrava una tale umiliazione. Per questo avevo deciso di starmene chiusa qui dentro per l'eternità. Però farei qualsiasi cosa per te se davvero vuoi che lo faccia. Beh, ecco, sì, ci tengo. Senza di te il pian terreno è troppo vuoto. Dai, vai a sistemare questa faccenda. Falla brava. Va bene, cedette Anna rassegnata. Appena Marilla rientra, le dico che sono pentita. Mi sembra giusto, va bene così, Anna. Però non dirle che ne abbiamo parlato io e te. Potrebbe pensare che ho ficcato il naso in cose che non mi riguardano e avevo promesso di non farlo. Non glielo dirò mai, nemmeno sotto tortura, promise solennemente la bambina, anche se non credo che arriverebbe a torturarmi. Ma Matthew se n'era già andato, spaventato dal suo stesso successo. Si precipitò nell'angolo più remoto del pascolo dei cavalli per scongiurare il rischio che la sorella sospettasse qualcosa. Marilla stessa, quando rientrò, rimase piacevolmente sorpresa quando sentì una vocina lamentosa che la chiamava dalla balaustra del piano di sopra. Allora? Chiese spostandosi nell'ingresso. Mi dispiace di aver perso la pazienza e di essere stata sgarbata e vorrei andare a dirlo anche alla signora Linde. Molto bene. Il tono brusco di Marilla non mostrava traccia del suo sollievo. Quanto si era arrovellata su come agire se Anna non avesse ceduto. Ti accompagno a casa sua dopo la mungitura. E così, dopo aver munto le mucche, Marilla e Anna si incamminarono lungo il sentiero. La prima impettita e trionfante, la seconda curva e depressa. Ma a metà strada l'atteggiamento abbattuto di Anna scomparve come per incanto. La bambina alzò la testa e proseguì a passi leggeri, gli occhi fissi sul tramonto e un'espressione di euforia trattenuta. Marilla osservò quel palese cambiamento con aria piena di disapprovazione. Quella non era più la penitente avvilita che lei intendeva portare al cospetto dell'offesissima signora Linde. A cosa stai pensando? Chiese alla bambina piuttosto seccamente. Mi sto immaginando quel che devo dire alla signora Linde, rispose Anna, persa nelle sue fantasticherie. La risposta fu soddisfacente, o avrebbe dovuto esserlo. Tuttavia, Marilla non riusciva a togliersi dalla testa la sensazione che qualcosa in quella punizione stesse andando storto. Anna non aveva motivo di apparire tanto gioiosa. Ma la bambina continuò a esserlo finché non si trovarono davanti alla signora Linde, che era seduta, con il solito lavoro a maglia, accanto alla finestra della cucina. In quel momento scomparve ogni traccia di euforia e sul viso apparve il pentimento più dolente. Prima di parlare, Anna cadde in ginocchio sotto lo sguardo esterrefatto della signora Linde, poi tese le mani giunte in atteggiamento supplice. Oh, signora Linde, sono profondamente dispiaciuta, dichiarò con voce tremula. Non potrò mai, mai dimostrarle tutto il mio rammarico, no, nemmeno usando un intero vocabolario. Deve immaginarselo da sola. Mi sono comportata in modo tremendo con lei e ho fatto fare brutta figura ai miei carissimi amici Matthew e Marilla Cuthbert, che mi hanno concesso di restare a Green Gables anche se non sono un maschio. Sono una bambina cattiva e ingrata e merito di essere punita e scacciata per sempre dalla comunità delle persone rispettabili. Da parte mia è stato davvero terribile perdere il controllo in quel modo e solo perché lei aveva detto la verità. Ho i capelli rossi e sono piena di lentiggini, sono pelle e ossa e anche brutta. Anche ciò che le ho detto io è vero, certo, ma non avrei dovuto dirlo. Oh, signora Linde, la prego, mi perdoni. Se non lo farà, tutta la mia vita sarà segnata dal dolore e lei non vuole infliggere un dolore vita natural durante a una povera orfanella, vero? Nemmeno se l'orfanella ha un pessimo carattere, vero? Oh, sono sicurissima che non lo desidera. La prego, signora Linde, mi perdoni. Anna giunse le mani, chinò il capo e attese il verdetto. Non c'era dubbio sulla sincerità della bambina che trapelava dal tono della voce. Marilla e la signora Linde ne riconobbero il suono inconfondibile, ma la prima delle due donne si accorse subito con notevole disappunto che Anna si stava compiacendo della valle di lacrime che si era inventata a proposito, che si crogiolava nella profondità della propria mortificazione. Quindi, che fine aveva fatto la punizione educativa di cui lei, Marilla, era andata tanto fiera? Anna l'aveva trasformata in una specie di piacevole passeggiata. La buona signora Linde, che non era dotata di grande intuizione, non si accorse di niente. Capì soltanto che la bambina si era scusata con il cuore in mano e ogni risentimento era scomparso dal suo animo gentile, anche se un tantino invadente. Ma no, dai, tirati su, figliola, le disse calorosamente. Certo che ti perdono, e comunque anch'io sono stata un po' troppo dura con te. D'altra parte, sono una persona schietta, non dovevi far caso alle mie parole, tutto qui. Certo che i tuoi capelli siano terribilmente rossi è innegabile, ma una volta conoscevo una ragazza, anzi, per la precisione, era una mia compagna di scuola, che da piccola aveva i capelli precisi, identici ai tuoi, e quando è cresciuta la sua chioma si è scurita e ha preso una stupenda sfumatura ramata. Non mi stupirei se succedesse anche ai tuoi capelli. Eh no, non mi stupirei neanche un po'. Oh, signora Linde! Anna si alzò in piedi con un sospiro. Lei mi ha dato una speranza. Da oggi in poi la considererò sempre la mia benefattrice. Oh, potrei sopportare qualsiasi cosa se solo fossi certa che da grande i miei capelli diventeranno ramati. È molto più facile comportarsi bene se hai i capelli di un bel color rame, no? E adesso posso andare a vedere il suo giardino e sedermi sulla panchina sotto i meli mentre lei e Marilla fate due chiacchiere? Fuori c'è molta più ispirazione per la mia fantasia, sa? Santo cielo, bambina, vai pure, corri fuori. Puoi anche raccogliere un bel mazzo di quei narcisi bianchi nell'angolo, se vuoi. Mentre la porta si richiudeva alle spalle di Anna, la signora Linde si alzò di scatto per accendere una lampada. È davvero una strana creatura, quella bambina, Marilla. Prenda questa sedia, cara, che è più comoda di quella su cui è seduta. La tengo solo per il garzone. Sì, dicevo, è proprio una strana bambina, ma c'è qualcosa di speciale in lei. Non sono più così sorpresa dal fatto che lei e Matthew abbiate deciso di tenerla, e non sono nemmeno dispiaciuta. Credo che crescerà bene. Certo, si esprime in una maniera davvero particolare. È un po', beh, un po' troppo intensa, ecco, ma scommetto che cambierà presto, ora che vive con persone civili. Poi c'è il fatto che perde la pazienza un po' troppo in fretta, ma non è per forza un male, perché una ragazzina con questo caratterino si arrabbia in un secondo e si tranquillizza nel giro di poco. Ma soprattutto non è mai falsa né disonesta. Lungi da me, i bambini troppo furbi, lo dico sempre. Insomma, Marilla, possiamo dire che mi piace la sua Anna. Quando Marilla uscì per tornare a casa, Anna spuntò dal profumato tramonto del frutteto con un mazzo di narcisi bianchi fra le braccia. Mi sono scusata abbastanza bene, vero? Chiese fiera mentre percorrevano il sentiero. Mi sono detta che, visto che lo dovevo fare, tanto valeva farlo alla perfezione. Ti sei comportata bene? Abbastanza bene, fu il commento di Marilla. La donna era costernata. Si rendeva conto che il ricordo di tutta la scena le faceva venire da ridere. Come se non bastasse, aveva la fastidiosa sensazione che avrebbe dovuto riprendere Anna perché si era scusata troppo bene, ma sapeva da sola che era ridicolo. Perciò raggiunse un compromesso con la propria coscienza e disse, severa: Spero che non sarà più necessario scusarsi con nessuno. Mi auguro che tu impari a controllarti d'ora in poi, Anna. Non sarebbe così complicato se la gente non mi prendesse sempre in giro per come sono. Ribatté la bambina con un sospiro. È l'unica cosa che mi fa davvero arrabbiare. Il problema è che sono così stufa di essere presa in giro per il colore dei miei capelli che quando succede mi accendo la prima parola. Ma secondo te, quando sarò grande, diventeranno davvero ramati? Non dovresti dare tanta importanza al tuo aspetto, Anna. Mi spiace, ma sei una piccola vanitosa. No, come posso essere vanitosa se so perfettamente di essere brutta? Replicò la bambina. È solo che mi piacciono le cose belle, e quando mi guardo allo specchio invece vedo una faccia che non è bella per niente, non lo sopporto. O meglio, mi sento subito triste, esattamente come quando mi capita di vedere qualcosa di brutto. Mi dispiace perché non è bello, ecco. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, le ricordò Marilla. Sì, certo, me l'hanno già detto in tanti, ma io non sono per niente convinta. Ribatté Anna, scettica, annusando i fiori. Oh! Senti come sono profumati questi narcisi. La signora Linda è stata così gentile a regalarmeli. Beh, adesso non sono più arrabbiata con lei. Chiedere scusa e sapere che l'altra persona ti ha perdonato è un sollievo, vero? Hai visto le stelle? Non ti sembrano più scintillanti del solito stasera? Se tu potessi vivere lassù nel cielo, quale stella sceglieresti? A me piacerebbe tanto quella in fondo nell'angolo, quella più grande e luminosa, proprio sopra la collina scura. Anna. Tieni a freno quella lingua, per cortesia. La rimproverò con decisione Marilla, che era già stufa di star dietro agli intricati ragionamenti della bambina. Lei rimase a bocca chiusa, finché non imboccarono il vialetto che portava a Green Gables. Una brezza allegra e leggera andò loro incontro, portando con sé il profumo gradevole delle felci appena spuntate, bagnate di rugiada. Più in là, nel buio della sera, tra le fronde degli alberi brillava una luce calda e accogliente, quella della cucina di casa. Senza preavviso, la bambina si avvicinò alla donna e fece scivolare la piccola mano nella sua, resa ruvida dai lavori domestici. «È stupendo tornare a casa quando sai che quella è proprio casa tua», le disse con un filo di voce. «Mi sono già affezionata a Green Gables e non mi ero mai affezionata a nessun posto prima, perché non mi ero mai sentita a mio agio come qui. Oh, Marilla, sono tanto felice. In questo momento potrei ringraziare Dio di tutto ciò che ho e le parole mi uscirebbero di bocca senza fatica». Al contatto di quella manina, Marilla sentì il cuore riempirsi di gioia. Forse si trattava di un istinto materno nascosto nel cuore che non si era mai manifestato. La donna non era abituata a quell'insolita dolcezza e si sentì quasi a disagio, perciò si sforzò di ritrovare subito l'abituale stato d'animo, cercando di fare la morale alla bambina. «Sarai sempre così felice, Anna, se farai la brava e non farai mai fatica a pregare». «Però, dire le preghiere non è proprio uguale a ringraziare Dio», obiettò la bambina pensierosa. «Comunque, per adesso mi immaginerò di essere il vento che soffia tra le chiome di quegli alberi. E quando sarò stanca, penserò di planare leggera sui ciuffi di felci. Volerò fino al giardino della signora Linde e farò danzare tutti i fiori. Poi scenderò in picchiata sul campo di trifoglio e arriverò, una folata dopo l'altra, al lago delle acque scintillanti, a smuoverlo per creare tante piccole onde splendenti. Oh, che meraviglia! Sentirsi vento fa davvero galoppare la fantasia. Quindi, da questo momento, me ne starò un po' in silenzio, Marilla». «Beh, ringraziamo il cielo anche per questo», sospirò la donna, devota e sollevata. Capitolo 11. Le impressioni di Anna sul catechismo. «Allora, cosa ne pensi?» domandò Marilla. Anna era con lei nella cameretta in mansarda e osservava con aria solenne tre vestiti nuovi che la donna aveva disposto in bell'ordine sul suo letto. Uno era di percalle a righine marroni, un tessuto che aveva acquistato da un ambulante l'estate dell'anno prima perché le era sembrato molto resistente. Il secondo era in rasatello a quadretti bianchi e neri, acquistato in inverno a una bancarella di Scampoli a buon mercato. Il terzo era fatto con un tessuto stampato, un po' rigido, in una sfumatura di azzurro piuttosto sgradevole che Marilla aveva comprato quella settimana a Carmody. Li aveva tagliati e cuciti con le sue mani e il modello era lo stesso per tutti: gonna dritta, corpetto liscio e maniche semplici e dritte come il resto. «Boh, posso immaginare che mi piacciono», rispose Anna mesta. «Non voglio che te lo immagini», ribatté Marilla offesa. «Si vede benissimo che i vestiti non ti piacciono. Cos'hanno che non va? Non sono in ordine? Puliti? E nuovi?» «Sì». «E allora perché non ti piacciono?» Sono. Non sono carini», spiegò Anna riluttante. «Carini», sbuffò Marilla. «Non mi rompo certo la testa per farti abiti carini. Certi vizi da bambina vanitosa non mi piacciono neanche un po', Anna, te lo dico chiaro e tondo. Questi vestiti sono di buona qualità, pratici, utili, senza balzi o arricciature inutili e sono tutto ciò che avrai quest'estate. Quello di percale marrone e quello azzurro stampato andranno bene anche per la scuola, quando inizierai a frequentarla. Quello di rasatello è per andare in chiesa e a catechismo. Non sporcarli, non sciuparli, tienili da conto, mi raccomando. Comunque, mi sarei aspettata almeno un minimo di gratitudine, visto che ti ho liberata da quell'abituccio striminzito di flanella che avevi». «Oh, ma io sono grata», protestò Anna, «ma lo sarei stata molto di più se almeno uno dei tre l'avessi fatto con le maniche a sbuffo. Sono molto di moda. Per me sarebbe stata un'emozione, Marilla, poter indossare un vestito con le maniche a sbuffo. Sapessi. Beh, dovrai fare a meno della tua emozione. Non avevo stoffa da sprecare. In ogni caso, le maniche a sbuffo sono ridicole. Preferisco di gran lunga quelle dritte. Semplici, semplici. Io invece preferivo apparire ridicola come il resto del mondo, anziché semplice, semplice da sola», insiste Anna, quasi piagnucolando. «Ah, su questo non ho dubbi. Forza, appendi per bene quei vestiti nell'armadio. Poi mettiti seduta e studia la lezione di catechismo. Il signor Bell mi ha mandato il libretto e ha detto che domani puoi cominciare a frequentare. Taglio corto Marilla, scomparendo verso il piano di sotto, chiaramente risentita. Anna giunse le mani e guardò i vestiti. Speravo tanto che ce ne fosse uno bianco con le maniche a sbuffo, mormorò sconsolata. Ho pregato di riceverlo, anche se non me l'aspettavo proprio. Dubito che Dio abbia tempo di occuparsi del vestito di una trovatella, quindi sapevo di dipendere dai gusti di Marilla. Comunque, per fortuna posso sempre immaginarmi che uno dei tre sia un abitino di mussola bianca come la neve, con graziosi volant di pizzo e maniche con triplo sbuffo. Il mattino dopo le avvisaglie di un brutto mal di testa impedirono a Marilla di andare con Anna alla scuola domenicale di catechismo. Bisogna che tu vada da sola, Anna. Passa a chiamare la signora Linde, disse la bambina. Penserà lei a controllare che tu vada nella classe giusta. Mi raccomando, comportati come si deve. Fermati a pregare dopo la lezione e chiedi alla signora Linde di farti vedere qual è il nostro banco in chiesa. Tieni, un centesimo per l'offerta. Non fissare le persone e non muoverti di continuo. Guarda che quando torni mi aspetto che tu sappia ripetere cosa ha detto il pastore nel sermone. Quando si avviò, Anna era inappuntabile nell'abito inamidato di rasatello bianco e nero, il quale, anche se dal punto di vista della lunghezza era più che decente e non faceva pensare che fosse misero, sottolineava ogni spigolo della figuretta ossuta. Il cappellino era alla marinara, piccolo, lucido e piatto. Era estremamente semplice e questo aveva deluso Anna, che si era subito abbandonata a segrete visioni di nastri e fiori ornamentali. Questi ultimi, in ogni caso, le furono forniti prima che raggiungesse la strada principale, perché a metà del vialetto di Green Gables Anna si trovò sotto gli occhi una distesa di ranuncoli carezzati con dolcezza dalla brezza e da un'esplosione di rose canine. La bambina non ci pensò due volte, fu svelta a ornare il cappellino con una ghirlanda fiorita. Qualunque cosa ne pensassero gli altri, lei era soddisfatta del risultato e proseguì allegramente per la sua strada, tenendo orgogliosamente alta la testa fiammeggiante con le sue decorazioni gialle e rosa. Quando arrivò alla casa dei Linde, scoprì che la signora era già uscita. Per nulla preoccupata, Anna andò in chiesa da sola. Sotto il portico dell'edificio trovò una folla di bambine vestite tutte più o meno allegramente, con abiti bianchi, rosa e azzurri. Tutte si misero a fissare la nuova arrivata con i suoi straordinari ornamenti. Le bambine di Avonlea avevano già sentito strane storie sul conto di Anna. La signora Linde aveva raccontato del suo brutto carattere e Jerry Boat, il bracciante di Green Gables, aveva riferito che parlava sempre da sola, oppure con gli alberi e con i fiori, come una fuori di testa. Perciò tutte la guardavano e mormoravano tra loro, nascoste dietro i libretti del catechismo. Neppure una provò a fare amicizia con lei, né in quel momento né dopo. Quando gli esercizi iniziali furono terminati e Anna si ritrovò nella classe della signorina Rogerson, una donna di mezza età che insegnava catechismo da 20 anni. Aveva un metodo tutto suo per insegnare la dottrina. Leggeva una delle domande scritte sul libretto del catechismo, per cui voleva una risposta, e guardava fissa, con severità, la bambina scelta per darla. Quel giorno i suoi occhi caddero molto spesso su Anna, che, grazie agli insegnamenti di Marilla, fu sempre pronta a rispondere. Anche se forse non aveva capito fino in fondo nelle domande né le risposte date. La signorina Rogerson non le piacque particolarmente, ma il vero motivo dell'infelicità di Anna fu che tutte le sue compagne di catechismo avevano le maniche a sbuffo, e lei ebbe la sensazione che la vita non meritasse di essere vissuta senza un vestito con quelle maniche stupende. Allora, come ti è sembrato il catechismo? Si informò Marilla appena la bambina tornò a casa. Nel corso della mattina la ghirlanda gialla e rosa era appassita e lei l'aveva buttata, quindi almeno in quel momento la notizia dell'insolito ornamento di Anna a Marilla non arrivò. Non mi è piaciuto neanche un po', rispose Anna. È stato orribile. Anna Shirley, esclamò Marilla in tono di rimprovero. La bambina si lasciò cadere sulla sedia a dondolo con un sospiro teatrale, baciò una foglia di Bonnie e salutò con la mano una fucsia in piena fioritura. Magari si sono sentiti soli quando io non c'ero, si giustificò. Adesso possiamo parlare del catechismo. Io mi sono comportata bene, come mi hai detto. Quando sono passata a chiamarla, la signora Lind era già uscita, perciò sono andata per conto mio. Sono entrata in chiesa e c'erano molte altre bambine. Mi sono seduta all'estremità di una panca vicino alla finestra per gli esercizi iniziali. Il signor Bell ha recitato una preghiera lunghissima. Se non ci fosse stata la finestra vicino a me, mi sarei stufata da morire, ben prima che finisse. Ma per fortuna si affacciava sul lago delle acque scintillanti, quindi mi sono persa via a osservarla e mi sono immaginata tante belle cose. Eh no, non va bene. Non avresti dovuto distrarti, eri lì per ascoltare il pastore. Ma guarda che lui non stava parlando con me, precisò Anna. Parlava con Dio, e tra l'altro nemmeno lui sembrava troppo interessato a ciò che leggeva. Forse aveva l'impressione che Dio fosse troppo lontano, sai. In riva al laghetto c'erano file e file di betulle argentee con i rami che si protendevano sull'acqua, e tra le chiome filtravano i raggi del sole che colpivano il lago e andavano più sotto. Sapessi, Marilla, sembrava un sogno. Tremavo tutta per l'emozione e ho detto grazie, Signore, 2 o 3 volte. Non a voce alta, mi auguro, sbottò la donna. No, no, sottovoce, pianissimo. Beh, dopo un po' il signor Bell ha concluso, finalmente, e mi hanno detto di andare nella classe della signorina Rogerson. C'erano altre 9 bambine con me e avevano tutte le maniche a sbuffo. Io ho provato a immaginare di averle anch'io, ma proprio non ci sono riuscita. Sai perché? Era facile convincersi di averle finché me ne stavo in camera per conto mio, ma in mezzo a tutte loro che le avevano sul serio diventava difficilissimo. Oh, non dovevi buttare via il tempo per pensare alle maniche di un vestito durante il catechismo. Eri lì per tenere le orecchie aperte. Spero che tu abbia imparato qualcosa, almeno. Altro che, ho risposto a un mucchio di domande. La signorina Rogerson ce ne ha fatte moltissime, anche se a me non sembra giusto che sia solo lei a fare domande. Io avevo tante cose da chiedere, ma ho lasciato stare perché ero in imbarazzo. Poi ogni bambina ha recitato un versetto della Bibbia. La maestra di catechismo mi ha chiesto se ne conoscevo uno e ho risposto di no, ma che però, se voleva, potevo recitare Il cane vicino alla tomba del suo padrone. Era nel libro di lettura. Non è un testo religioso, ma è una storia così triste che potrebbe esserlo senza problemi. La signorina Rogerson mi ha detto che non andava bene e che per domenica prossima devo imparare il 19° versetto. Dopo in chiesa sono andata a leggerlo ed è stupendo. Ci sono 2 frasi che mi hanno colpita. Così come caddero in un attimo le schiere trucidate nel più terribile giorno di Midia. Non so proprio cosa c'entrino le schiere e chi sia Midia, ma il tono è così tragico. Non vedo l'ora che sia domenica prossima per poterle recitare. Farò esercizi ogni giorno questa settimana. Beh, dopo il catechismo, siccome la signora Lind era troppo lontana, ho chiesto alla signorina Rogerson di mostrarmi la vostra panca e mi sono seduta. Mi sono sforzata di stare più ferma possibile. Le letture erano tratte dal libro della Rivelazione, capitolo 3, versetti 2 e 3. Era un brano piuttosto lungo. Se fossi io il pastore, sceglierei testi più veloci e allegri. Anche il sermone è stato lungo, come la fame. E d'altronde credo che il pastore volesse renderlo equivalente al testo che commentava, ma non mi è sembrato interessante neanche un po'. Sai, Marilla, secondo me quell'uomo ha un problema, non ha abbastanza fantasia. A essere sincera, non ho ascoltato molto. Ho lasciato volare i miei pensieri e mi sono immaginata le cose più incredibili. Marilla sapeva che avrebbe dovuto rimproverare con severità la bambina per quelle chiacchiere e per quei modi, ma glielo impediva il fatto che dentro di sé, nel profondo del cuore, senza averlo mai detto a nessuno, da anni pensava esattamente le stesse cose, soprattutto riguardo ai sermoni del pastore e alle preghiere del signor Bell. E di colpo ebbe quasi l'impressione che tutti i suoi pensieri nascosti, quelle critiche sempre trattenute, avessero preso corpo nella personcina di quell'esempio di umanità sfortunata che era Anna, e l'accusassero.